Welcome, Federico. The system is ready to jack in. Ed eccoci qua ad una nuova puntata di Medium, il podcast su Netrunner. Io sono sempre Federico Latini, appassionato di Netrunner e molto emozionato nel andare a partecipare al primo torneo italiano che faccio. Dico il primo torneo italiano perché il vero primo torneo di Netrunner che ho fatto è stato in Germania durante Essen. In questo torneo però conto di trovare persone e giocatori molto più agguerriti rispetto al torneo un po' casual che è stato giocato durante Essen. Mi sono quindi attivato affinché tutti quelli che ascoltano Medium abbiano una sorta di marcia in più. Che cos'è questa marcia che voglio darvi? Si tratta di una statistica. Ho tenuto sotto controllo SteamHack dal punto di vista dei mazzi che pubblicava di volta in volta per ogni torneo che si è svolto in America, e quindi ho ottenuto una statistica di quelli che sono i mazzi più vincenti fazione per fazione, ma anche singola identità per singola identità. Andiamo velocemente a fare un'analisi generica per fazione. Chiaramente, per quanto riguarda il lato runner, vince a mani basse la fazione dei criminal. Ma non mi stupirei, nel senso che anche dal punto di vista tematico questi fanno il loro lavoro per soldi, e dove c'è pecunia e dove c'è profitto, chiaramente il livello di professionalità e il livello di efficienza è molto più elevato. Quindi è anche normale che i criminal vengano utilizzati di più, in quanto hanno le carte blu che sono più efficienti per andare a portare a casa i sette punti agenda di cui abbiamo bisogno. Al secondo posto gli Shaper, i quali hanno ricevuto un bel boost da Creation and Control e son tornati un po' in auge, ma non sono riusciti a scalzare i criminali, cosa che penso non avverrà per altrettanto lungo tempo in virtù del fatto che sta per uscire una mega espansione a loro favore che non potrà far altro che migliorare la loro statistica. Poi andiamo a vedere un po' più dettagliatamente quale identità prevale magari sui criminal e quale nelle altre fazioni. Andando invece diretti verso il lato corp, abbiamo una situazione un po' più equilibrata. Vediamo sempre in netta difficoltà Jinteki, nel senso che in questi tornei ha vinto solamente 9 volte su un totale di circa un'ottantina, fra 80 e 90 tornei. Quindi ha l'11% fondamentalmente delle vittorie. Al contrario, le due fazioni, le due corporazioni che fanno da padrona sono sicuramente MBN e Wayland, che distaccano di circa un 5% a Sbioroid. Ora, io onestamente non griderei al miracolo, direi che Asbioroid ha comunque tutte le carte in regola per essere veramente una corporazione da giocare e che può vincere. Secondo me lo spin dato da Grindol ha permesso a Wayland di riprendere un po' il posto che gli spettava, e MBN d'altronde è sempre stata sulla cresta dell'onda, basta guardare le performance che ha fatto ai mondiali, dove la maggior parte delle persone ha portato MBN e Andromeda. Questo perché dal punto di vista della consistenza, cioè della affidabilità, è sicuramente una corporazione che non ti tradisce. Molto più interessante andare a vedere le sottoidentità del lato corp piuttosto che del lato runner, e vi spiego subito per quale motivo. The World is Yours supera di ben 3 tornei vinti rispetto a MBN Making News, e quindi è la seconda identità non core che a tutti gli effetti prende un posto di rilievo nelle statistiche. Chiaramente queste statistiche non hanno la capacità di essere esaustive, perché avrei dovuto prendere i mazzi giocati durante tutti i tornei, quindi anche il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto classificato, per poter darvi una statistica più seria. Io questi dati non ce li ho. Probabilmente, se Octagon avrà piacere di pubblicare ulteriormente dei dati, vedremo fiorire fior fior di statistiche a riguardo. Quindi ecco, abbiamo detto che The World Is Yours si candida come seconda identità non core più giocata, anzi che ha scalzato NBN Making News nelle vittorie. Sicuramente è stato ben accolto Grindle, quanto 9 mazzi su un complessivo di 25 mazzi giocati da Wayland che hanno vinto i tornei, 26 mazzi giocati complessivamente da Wayland che hanno vinto i tornei, 9 di questi erano Grindle. Quindi già il fatto di essere 9 di questi mazzi aver scalfito Building a Better World, che è assolutamente una identità molto molto forte, soprattutto con l'avvento delle nuove operation, e è sintomo del fatto che hanno fatto una bella meccanica, comunque una bella identità. Allora, sul fronte dei runner, per quanto riguarda gli Shaper, su 22 tornei vinti direi che 8 se li sono aggiudicati Kate e altri 7 Chaos Theory, a seguire Riel, Kit Peddler e poi Exile Street Hawk, che ne ha ottenuti solamente 2. Non mi sento di dire che c'è un'identità dominante, se non la Kate McCaffrey, che assolutamente ha dominato per tutti coloro che volevano giocare la fazione verde. Noise, assolutamente il più giocato per quanto riguarda gli Anarchs, non riesce ad imporsi Reina Roja, che ottiene solamente due tornei vinti su 9 che sono stati vinti dagli Anarchs. E invece sul fronte dei Criminal siamo in totale parità, 24 tornei vinti da Santiago e 24 tornei vinti da Andromeda, no 26 vinti da Andromeda, comunque sì, è una parità a tutti gli effetti, e questi due di scarto non fanno statistica. Quindi che voi siate criminali ex aristocratici oppure professionisti del crimine, poco cambia. In realtà la vittoria non ve la fanno le identità, ma ve la fanno le carte blu, detta come va detta. Passiamo invece a una cosa un pochettino meno arida come i numeri delle statistiche, che comunque aiutano a fare delle scelte per andare ad un torneo importante come quello che può essere di Modena Play. Io farò una scelta molto molto molto importante a Modena Play, poi alla fine del Modena Play in un podcast ne parleremo. Passiamo a parlare invece di una cosa molto più divertente dal mio punto di vista, che mi ha dato veramente tanto tanto soddisfazione, ma tuttora mi sta piacendo molto, che è il piccolo contest, come dire l'esperimento sociale che abbiamo fatto, ovvero cercare di stimolare tutto il gruppo dei netrunneriani a produrre delle carte di fantasia. Il primo tema era, è tuttora, perché in realtà il concorso è ancora in esecuzione, potete ancora mandare le vostre proposte di carte di fantasia. Il tema è il decking, fondamentalmente la capacità da parte del runner di vincere grazie al fatto che la corp non può più pescare una carta dal proprio mazzo, perché il suo mazzo è finito, è tutto negli archivi. Ora, questo può essere facilmente confuso con il trasciare carte da R&D verso archivi, ed effettivamente molte delle proposte vedono quella come unica soluzione: prendo carte da R&D e le metto sugli archivi finché il mazzo non finisce. E effettivamente è così che si fa decking a un avversario. Questo gioco però è strutturato in modo tale da rendere molto più conveniente poi a un certo punto fare una run su archivi e guadagnarsi 7 punti agenda. Quindi la sfida qual è? Non è solo quella di trovare un meccanismo equilibrato per trasciare carte dalla R&D verso gli archivi, ma è anche quello di mettere all'interno di questo meccanismo ben bilanciato uno sprone affinché il runner sia intenzionato a bruciare il mazzo dell'avversario piuttosto che andarsi a prendere le identità. E molti di questi però effettivamente direi che sono riusciti nell'intento. Inizio subito con Alexio Schneeberger. Scusa Alexio se ho violentato il tuo cognome, che ci propone informazioni distorte, 2 crediti per giocarlo, Anarch 3 di influenza, 0 costi di memory unit, quindi è un programma, è anche un virus. E dice: ogni volta che il runner termina una run con successo, la Corp installa la prima carta del R&D in un nuovo server. Se la run non ha successo, trascia le informazioni distorte. Ora, sicuramente molto ben bilanciata, cioè devo fare tutte run di successo, altrimenti la trascio. Quindi è un po' una scommessa quella che l'anarchico di turno fa. Molto bello anche che non si focalizzi sul trasciare, ma si focalizza sul passare da R&D fino a un server remoto, come se la Corp non avesse più il controllo della situazione. Questa è probabilmente una delle carte che mi sono piaciute di più in assoluto, con l'unica pecca del fatto che dal punto di vista del wording, o comunque dal punto di vista della meccanica, crea un po' di incubo nel caso in cui ci siano carte che non possono essere installate, tipo delle operazioni, tipo qualcosa che per essere installato ha bisogno di una condizione iniziale, insomma tutto quello che non potrebbe essere installato, tipo le operazioni, risulta in un limbo di non comprensibilità di cosa succede a quella carta che è stata installata lì. Ora, certo, si possono mettere delle postille dicendo, che ne so, ogni volta che il runner termina una run con successo, la Corp installa la prima carta, la Corp guarda la prima carta di R&D e, se può farlo, la installa su un nuovo server remoto. Questo probabilmente risolve ed è molto bello che, come dire, il runner si metta da solo nella posizione di dover poi andare a controllare quello che effettivamente è stato installato. Non necessariamente deve essere qualcosa di negativo per la Corp, quindi va benissimo, adoro questo tipo di bilanciamento, avanti così. Altre persone si sono soffermate più sull'aspetto del trasciare le carte o del far pescare delle carte. Molto particolare la meccanica proposta da Francesco D'Alessio, ovvero il runner che con una carta innesca delle trace lui stesso, e questa è una meccanica che ancora non avevamo mai visto. Molto bello anche questo meccanismo di autoindebolimento proposto da Andrea Mezzotero, che ci dice, cioè che utilizza il purge virus, e qui anche qui abbiamo un ribaltamento della situazione, cioè è il runner stesso che si purga tutti i virus a favore di un trashing gigantesco dell'R&D. Complimenti tantissimo a tutti coloro che hanno proposto le carte nella versione già con il frame e già impostate in formato grafico. Io non so che cavolo di skill bisogna averci per fare una carta come Lunar Bar, ma vi assicuro che è veramente impressionante. Tutte queste hanno delle meccaniche molto interessanti. In generale vedo molto trashing e poco orientamento verso il decking, e poi arriviamo invece a una proposta molto interessante, Sarah Connor, a parte la citazione bellissima, uno di Link, identità invece che una carta, quindi da giocare è un'identità direttamente, che quindi ti dice: non puoi conteggiare i punti degli obiettivi rubati, ma ogni qualvolta rubi un obiettivo la Corp deve scartare X carte dal suo ricerca e sviluppo, dove X è il punteggio dell'obiettivo rubato più 3. Direi che questa effettivamente è una soluzione di quelle molto molto dirette, cioè di dire: oh, volevi la carta che volevi, il mazzo che faceva decking, ti faccio direttamente un'identità che è focalizzata solo su quello e quindi rinuncia a uno degli obiettivi e ha un vantaggio notevole per raggiungere l'altro obiettivo, che è quello del decking della Corp. Sicuramente incontra quelle che possono essere le richieste che vi ho fatto sul post, probabilmente in maniera un po' troppo marchiana, un po' troppo esagerata. A mio parere non è una di quelle carte sottili, cioè che dici forse adesso allora faccio un deck che può fare anche quello, oppure faccio un deck che sembra questo ma poi fa anche quell'altro. No, qui si sta dicendo semplicemente: cara Corp, non ti preoccupare delle agende che ti ruberò, perché il mio obiettivo è quello di trasciarti tutto negli archivi. Quindi sicuramente la Corp ha un vantaggio nel sapere questa cosa in anticipo. Comunque, in generale, grazie mille per quello che avete fatto finora. Grazie ancora per tutto quello che farete nei prossimi giorni. Vi ricordo che le sottoscrizioni di questo contest terminano a 2 settimane esatte dalla data del post, quindi se ancora vi state facendo girare per la testa qualche idea, sbrigatevi a scriverla, ma non tanto perché voglio mettervi in fretta, ma perché comunque ne potete scrivere più di una, quindi siete liberi di scriverne una e poi scriverne una versione che considerate migliore. Non la prenderò in, diciamo, prenderò in considerazione tutto quello che mi proponete, a prescindere da quante me ne avete proposte. Qui non è la quantità che conta, piuttosto è la qualità. Se avete domande e richieste, ci sentiamo su Google Plus oppure su la pagina Facebook, oppure scrivete dei commenti anche direttamente su netrunner.it. Vi auguro a tutti quanti un buon deck building in ottica del torneo di Modena Play. Ci vediamo tutti quanti sabato mattina alle 9:30 al massimo per cominciare il torneo. Per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao! I've seen. Maintenance mode turned on. Jack out.